Easy Pop è lieta di presentarvi la nuova rubrica Le interviste di Easy Pop, un programma ideato e a cura di Franco Paoletti con la regia del Bolognese Volante. Intervista numero 10. Franco Paoletti intervista Rudy Marra. Nel salotto di Easy Pop questa volta viene a trovarci un personaggio, e adesso io non so se chiamarlo di culto, ma è un personaggio diciamo di culto o comunque di nicchia, come appunto solitamente vengono chiamati. Certo. Beh, ciao Rudy, Rudy Marra. Ciao a tutti, ecco, pensavo Padre Pio, capito? Dall'ingresso di quei personaggi di culto pensavo la roba più esagerata. Ok, no, sono Rudy, ciao a tutti. Ciao Gianfranco. Ciao Rudy, mi fa immensamente piacere ritrovarti con un album decisamente molto caldo, molto denso, e quindi insomma abbiamo bisogno di te per decriptare questo album. Certo. Io ti chiamo artigiano della canzone d'autore perché ti vedo così, insomma, fin dal tuo primo Sanremo, dove tra l'altro vincesti anche il premio della critica, che non è poca cosa. Sì, della categoria giovani, diciamo che la critica apprezzò il pezzo, dai, mettiamola così, perché i premi poi non servono a niente, però va bene così. Era Gaetano, il pezzo storico che passò quel 91. E diciamo che per molti è stato un po' un pezzo generazionale, diciamolo così, erano i primi anni 90 e poi sono venuto tutta una categoria di autori e cantautori che un po' hanno seguito quella scia. Quel filone lì, perché tu eri, sì, certo, eri così positivo, però poi ti sono venuti dietro, hanno proprio, certo, captato quel malessere che tu denunciavi all'interno di questo brano, e devo dire, certo, hai avuto, sei stato un preveggente in questo. Sì, diciamo che era un po' un parlare quotidiano che non era tanto usato in quel momento lì, era un po' meno aulico di altri tipo di cantautorato, e quindi forse ha segnato una strada, ecco. Sì, diciamola così. Sei stato veramente, certo, un cantante, tra l'altro esordiente, di rottura rispetto, sì, al solito. Sì. Insomma, ai bravi ragazzi che c'erano. Sì, appunto. Ecco. Senti, due libri all'attivo, cinque album. Tre libri. Ti interrompo subito perché ho appena pubblicato nel 2022 il terzo libro, che te lo dico subito perché ci tengo moltissimo, perché è un saggio. Io sono laureato in sociologia, sì, però lavoro su saggio socio-antropologico, diciamo così, sulla musica rock, l'aggregazione giovanile e tutto il resto, che si chiama proprio Massa e potere del rock. Fantastico. Che ha preso gli spunti da Canetti, Elias Canetti, che ha scritto appunto Massa e potere. Io l'ho declinato attraverso la musica, e la musica rock in particolare. Ecco, questo vuole essere, giusto per essere precisi, quindi sono tre i libri all'attivo in questo momento. Grande, questo me lo sono fatto, correrò sicuramente in libreria cercando. Grazie. Senti, mille. Comunque, cinque album, tra cui un, sì, live, poi alcuni EP, sì, e hai collaborato, sto facendo questa scheda per i nostri amici che insomma, sì, sono all'ascolto, che magari non hanno focalizzato bene Rudy Marra, però insomma tu hai collaborato con Cristiano De André, poi con Giusy Ferrero, con Tosca, sì, con Finardi in questo album di cui, sì, ci racconterai, insomma, e hai fatto un album, se non sbaglio, solo in francese, giusto? Che sì, è uscito solo in Francia per appunto per territorio francese, che era un album, diciamo che era una compilation dei primi due album più tre pezzi inediti fatti apposta per la Francia, dove poi abbiamo fatto anche un bel tour, tra cui Parigi, all'Espace Chiron, al teatro Espace Chiron, devo dire con buon successo, ecco. È vero, proprio sei stato veramente una cosa, cioè sei una scheggia impazzita nel panorama italiano, perché queste cose insomma le hanno fatte ben pochi. Ricordo solo magari Lucio Dalla, che si può discostare dal troppo, non fare questi paragoni arditi, però grazie. Senti, in questo nuovo album, che è stranissimo, poi io presumo, te lo dico subito, a vedere un titolo così provocatorio come Morfina, e io presumo l'ho abbinato, associato e ci ho intivato a Bulgakov, e non so se si possono citare gli scrittori russi, ma noi lo facciamo, ce ne freghiamo. Ah, c'è anche questa problematica addirittura, vabbè. Ma non lo so se nell'aria, cioè, comunque fatto sta che noi citiamo, visto che c'è un tema di citazione. Appunto questo album che è, allora io ho ascoltato molto velocemente perché purtroppo appunto per motivi tecnici eccetera, però devo dire è molto denso, ci sono molti focus e poi c'è questo duetto addirittura con Eugenio Finardi che mi ha stranito e non poco, quindi a questo punto puoi presentarci questo album, come nasce? Sì. Guarda, intanto è proprio quello che si dice un concept album, quindi un album che ha un fil rouge che lega tutti i 15-16 pezzi anzi del disco, e come hai detto tu, prende origine da una mia convinzione che poi ho, come dire, ereditato anche da un libro, da un libello, se vogliamo un racconto, in realtà dei primi del Novecento, del 1923, se non vado errato, di Bulgakov, che appunto si intitolava Morfina, ed era la storia dei primi, quando si scoprì questi famosi cristalli tratti dalla pianta, appunto dagli oppiacei eccetera eccetera, credevano di aver trovato, tutti gli scienziati, i dottori, i medici, credevano di aver trovato la panacea di tutti i mali, cioè la risoluzione a tutti i problemi dell'umanità, dalla cura del dolore fisico a quella del dolore psicologico, no? Perché chiaramente risolveva dei problemi che fino a quel momento portavano addirittura alla morte per il dolore, fratture, piaghe e quanto di più, e allo stesso tempo vedevano che c'era un risultato benefico a livello umorale delle persone, quindi la felicità, la gioia di vivere, fino a quando ovviamente non si scoprì il rovescio della medaglia, cioè quella che era la dipendenza e quindi il dolore, fino a, come nel libro poi di Bulgakov, al suicidio, no? Quindi alla disperazione per essere dipendenti totalmente, insomma sono cose che sembrano quasi banali dirle, visto che poi tutta la parte giovanile conosce, no? Gli effetti delle droghe eccetera eccetera, e le stragi che sono state negli anni a livello di tossicodipendenza e tutto quanto il resto, però continua ad esserci, l'uomo ha bisogno di attaccarsi a qualcosa per ricercare la felicità, diciamo così, per quantomeno per alleviare il dolore, dopodiché questa felicità non si raggiunge mai, anzi spesso si scopre il lato B, quindi il lato della medaglia, il rovescio, che è quello appunto di una dipendenza dalla sostanza, ma nella realtà qui non sto parlando di sostanze psicotrope o stupefacenti, io parlo proprio della vita, perché noi nella vita normale siamo alla ricerca continua della felicità, della vetta da raggiungere per essere felici, ognuno a suo modo, chi nell'amore, chi nel lavoro, chi con i soldi, chi nella musica, chi nell'arte, e così si ricerca, ma si raggiunge mai, la mia domanda è, si raggiunge mai una felicità assoluta? E nel momento in cui si raggiunge questa felicità, quante volte poi ricadiamo, no, nell'angoscia del fatto che questa felicità dura davvero pochi minuti e pochi secondi o pochi istanti o pochi giorni? È quello che io chiamo la sindrome del pranzo di Natale, se ci fate caso, il pranzo di Natale o di Capodanno, vedetela quando, come volete, o la cena di Capodanno, è il ritrovo con i parenti, gli amici, il festeggiare, e una volta però arrivati alla fine della cena o del pranzo, rimane un po' con quell'angoscia che è finita anche quella festa, no? Oppure, vabbè, il sabato famoso, il sabato del villaggio, è quello lì, no? Finisce il sabato e la domenica, si ritorna al lunedì. E quindi che succede? La felicità in realtà non esiste, è solamente una ricerca che noi abbiamo costante di avere quello che noi non possiamo ottenere dalla vita normale, cioè una vita felice sempre, no? Una vita che non finisce mai, perché fisicamente no, noi finiamo, abbiamo un inizio A e una fine B, questo è scontato, non sappiamo quello che c'è prima, non sappiamo quello che c'è dopo, quindi significa che saremo tristi per tutta la vita, che saremo infelici? Forse, però c'è, e questo un po' è la chiave del mio concept album, forse c'è la possibilità di non cercare la vetta della felicità, ma di trovarla tutti i giorni in tutte le cose, anche quelle meno piacevoli, quelle più brutte, ci sono dei dispiaceri, ci sono dei dolori che però vanno poi, come dire, lavati, vanno assorbiti e si ricomincia da capo. Questa è la vera felicità dell'uomo, la felicità dell'uomo è la vita stessa, cioè quello che si chiama onda su onda, no? Cioè, pagina dopo pagina, sfogliare il racconto pagina dopo pagina, non pensando che a un certo punto ci sarà una fine, magari ci sarà un to be continued, no? Come si dice in inglese, continua alla prossima puntata. E questa è l'unica ricetta che posso dare, e questo, diciamo, questi 15 pezzi legano tutta questa storia, questa ricerca continua di qualcosa a cui aggrapparsi, pigliarsi, è un po' la coperta di Linus, no? Che noi cerchiamo sempre, quelli che ci dà sicurezza, quindi lo ricerchiamo nell'amore, lo ricerchiamo nella musica, lo ricerchiamo nel sesso, lo ricerchiamo nell'arte, in tutto quello che cerchiamo di raggiungere, noi speriamo di trovare la felicità estrema, cosa che poi purtroppo ci deluderà quasi sempre. Questo è tutto il concept dell'album. Mi ricorda un po' Leopardi, così. Diciamo che quello lì è il concetto, insomma, non credo di essere stato il primo a parlare di questo, lo sto cercando di vedere sotto un aspetto particolare che è il mio, no? Chiaramente. Certo. Parliamo invece di questo album, che io ho trovato una definizione del tuo album che dice più o meno un amore distopico, scheletrico come il blues, questo album. Allora, abbiamo capito che questo album è in formato, diciamo, molto artigianale, però sì. Ti sei attorniato da personaggi importanti come Dana Coley e poi Fine stessi, anche qui ritorna, ma è di Eugenio Finardi e di tantissimi altri tuoi collaboratori. Ce ne parli, come è nato, in quanti anni è nato questo album e come è realizzato? Sì, ti dico subito, tutto è nato intorno al 2010-2011, quindi parliamo di quasi 10 anni fa, però è chiaro che parliamo del primo seme, perché a un certo punto il mio ultimo album da cosiddetto cantautorato rock italiano, insomma eccetera, del 2007, si intitolava appunto Sono un genio ma non lo dimostro, ed era un album chiaramente ancora che aveva una scrittura cantautorale, anche se sono sempre stato votato un po' sul rock, insomma, diciamo così, tradizionale, tra virgolette. Quindi il mio problema è stato che dopo 2-3 anni di live, dei concerti, di portare in promozione il disco eccetera, mi sono accorto che non mi bastava più quella dimensione, avevo proprio bisogno di trovare nuove soluzioni, ma proprio di suono, di impatto con la musica, e la prima idea è di trovare uno strumento nuovo da suonare, però sai, suonando da 40 anni e passa, chitarre, cose varie, cioè strumenti a corde, era difficile andare a pensare di imparare all'improvviso la cornamusa, tanto per dirti, uno strumento strano o qualsiasi altro strumento del mondo. E quindi il suono dei tuoi dischi? Sì, volevo cambiare il suono, volevo un approccio diverso proprio alla canzone, non sopportavo più questo fatto di dover scrivere la melodia, chitarra, cercare l'armonia, la chitarra, cercare il solito assolo di chitarra nel finale o di tastiera, insomma era, per me era diventata una cosa troppo standard. Sono sempre stato uno, probabilmente come dicevamo prima dell'inizio dell'intervista, mi stanco facilmente delle roba ripetitiva, insomma non sopportavo più questo, non mi piaceva neanche più il mondo poi della musica italiana, il cantautorato italiano, sempre molto legato alla bella frase ad effetto oppure al concetto della canzone attraverso le parole. Avevo bisogno di far musica, guarda, non so spiegarlo in maniera diversa. Fare musica vuol dire emozionare, già con la musica, col ritmo, cosa che noi latini, in particolare gli italiani, abbiamo molto poco, perché non abbiamo la concezione del ritmo, non abbiamo la concezione del groove, cosa che è più anglosassone. Esatto. Loro dicono già, cioè Satisfaction, adesso faccio dei esempi anche troppo alti, o qualsiasi altro pezzo rock o dell'ambiente funky, blues, eccetera, non c'ha bisogno del testo più di tanto, parla già ritmicamente, ti muove già, capito? In Italia invece non è così, in Italia ha bisogno, è sempre troppo legata al testo, a quello che stai dicendo, al concetto, piuttosto che poi, che il concetto già sarebbe buono, ma il problema è che siamo proprio legati alla parola, alla frase ad effetto, allo slogan, che è veramente la cifra italiana, no? E poi questo qua mi... Sì, è quello che poi ha portato anche ormai al nulla musicale con la frase ad effetto. Ma adesso il problema degli autori italiani è trovare la frase giusta o la cosa o sconvolgente o un po' pruriginosa oppure molto poetica, no? Che è più nel cantautorato classico. Così, e questa cosa mi ricordava tanto quelle robe alle scuole superiori, quando c'era quello un po' meno ferrato in italiano, mentre si faceva il tema, il compito di italiano, che mi chiedeva dimmi una frase, cioè, dimmi una frase, non voleva dire niente, era giusto per mettere dentro una frase bella nello svolgimento del tema, no? Quella cosa lì. E ormai la musica italiana è molto diventato questo, insomma volevo uscire fuori da questa situazione. Allora cosa ho pensato? Ho pensato che il mio sogno è sempre stato quello di suonare il basso più che la chitarra, ma le mie mani non sono grandissime, quindi a un certo punto ho ripiegato per la chitarra. Il basso mi era proprio difficile tecnicamente da suonare, però ho sempre suonato la chitarra molto sulle corde basse, cioè molto avendo groove più che ricercare il solo, no? con le corde alte, insomma chi può sa di musica capisce quello che sto dicendo, insomma così. E quindi la mia prima idea è stata, sai cosa faccio, visto che il basso per me è complicato, mi smonto le ultime due corde, suono con le quattro corde e suono quasi da groove così con le bicorde, poi quattro era, ma questo è praticamente un basso, e quindi ho smontato un'altra corda ed erano diventate tre corde e suonavo questi bicordi, questi accordi sempre presi, così, che era molto blues. A che mi è venuta l'idea, ho detto chiamo un batterista e un fiato, che all'epoca era un trombonista in realtà, e ho detto sai, mi piacerebbe fare ai ragazzi questo esperimento, un groove bello, un po' blues, un po' jazz, ok, proviamo. Abbiamo cominciato a provare, ho scritto un po' di pezzi, a un certo punto il trombonista mi ha proprio detto sai che sta roba qua mi ricorda molto, ricordi i Morphine? Io sinceramente i Morphine non li conoscevo bene, probabilmente avevo sentito qualche canzone, però come tu sai, Gianfranco, tu lo sai, gli anni 90 per me sono stati, ero troppo impegnato a cavalcare la mia ascesa, no? Perché era proprio il 91, no? L'onda delle Sanremo, sentivo pochissimo di quello che c'era in giro, i miei ascolti rock erano finiti al punk rock, no? Diciamo così, alla fine anni 80, il grunge, tutta la parte nuova degli anni 90 l'ho vissuta poco, quindi non conoscevo benissimo, e quindi sono andato ad informarmi lì sul web, no? Chiaramente, e quando ho scoperto il mondo Morphine, era il mio mondo, non solo, ma ho cominciato a seguire la storia di Mark Sandman, che era il bassista poi dei Morphine, e mi sono riconosciuto in lui, cioè lui ha fatto lo stesso percorso che ho fatto io, identico, cioè ha cominciato a smontare le corde alte della chitarra per suonare il groove con le corde basse, prima tre corde e poi è arrivato dalle due corde. E allora mi è sembrato quasi normale mandare una mail a quello che, perché sapete, Mark Sandman poi morì nel 99 in Italia, proprio in un tour mondiale, lì proprio a Palestrina, vicino Roma, per un infarto, e quindi scrissi a Dana Cole, così tanto per capire se erano ancora in attività, perché sapevo che avevano cambiato la band, insomma avevano già fatto delle evoluzioni, e lui, a sorpresa, dopo 10 minuti mi ha risposto, cioè così, vediamoci su Skype, mi ha detto, è scritto in inglese ovviamente, tradotto. E così io mi sono collegato con lui, guarda, lo faccio breve, il primo incontro è stato disastroso perché io parlo malissimo e pochissimo l'inglese, quindi un conto è parlare piano con qualcuno che ti parla pianino per farti capire, un conto è parlare con un americano di Boston che parla bello veloce per capire quello che... A un certo punto però lui è stato un genio, perché mi ha visto dietro la mia webcam del PC che avevo le chitarre, ha detto, girl, play, suona qualcosa, no? Ma detto, giochiamo un po' insieme. E io ho preso, gli ho fatto sentire i pezzi, e lui senza dire niente ha preso il suo sax baritono e ha cominciato a suonare sulle mie cose. E la cosa funzionava. È nata un'amicizia, tanto che lui mi ha fatto il più bel complimento della mia vita, perché a un certo punto mi ha detto, ma sei sicuro che sei italiano? Perché le cose non gli sembravano da cantante italiano, probabilmente si era informato di musica italiana eccetera eccetera, e quindi da lì è nata questa amicizia, fino a che nel 2011 ci siamo incontrati e abbiamo fatto insieme a una band più, con più elementi, abbiamo fatto una trentina di date dappertutto in Italia, molto veramente underground, suonavamo in qualsiasi posto possibile. Curiosità, senti una cosa, io ho fatto ascoltare il tuo disco a un amico e praticamente mi ha chiesto, perché sapeva che tu sei anche, seguivi le tarante, tutte queste cose qui, ma tu sei un personaggio che suona il folk, vai alla ricerca del folk, quindi ti consideri comunque un personaggio o un artista che recupera il folk e lo riadatta, oppure no? Perché effettivamente... No, allora il mio problema è che non è un problema, ma è che io sono nato a Lecce, nel Salento, a Galatina, poi in particolare, che è proprio la città della Taranta, dove San Pietro e Paolo proteggeva, infatti i famosi, cioè i galatinesi non vengono colpiti dal morso della Taranta perché protetti da San Pietro e Paolo, questa era la tradizione, insomma così, lì c'è proprio il pozzo di San Pietro e Paolo dove venivano le tarantate a purificarsi e quindi a calmarsi dopo i balli con ritmici, cioè. Quindi io ce l'ho dentro, no? Un po' questa tradizione, ma il mio problema è che le tradizioni non mi appartengono, non me ne frega niente della tradizione, anzi le ho sempre scavalcate di netto. Questo non vuol dire non rispettare alcuni ritmi, alcuni suoni, perché il ritmo della taranta, della pizzica, è un ritmo velocissimo, credo sia il ritmo più veloce al mondo, ma ha le sue origini nella musica africana, poi se vogliamo, se andate a sentire l'afro, la musica africana vera, a quel tipo di ritmi, a questo tipo di incandescenza nella parte, no, del groove, della ritmica, per scaricare tensioni, per adorare la divinità, per chiedere purificazioni, per diventare adulti, e tutta una serie di manifestazioni, no, tradizionali, antropologiche, insomma studiate dappertutto. Quindi il ritmo ossessivo del tamburo è il ritmo dello strumento a corde con le poche corde, quelle di budello animale, no? Che si faceva una volta, è proprio il suono ipnotico che fa di questo groove un'ipnosi vera, e quindi, come tutte le ipnosi, portano a un livello superiore, che è quello ultraterreno, certo. Se vogliamo, per alcuni è la divinità, per altri è proprio un essere in trance, no? Come dire. E questo è alla base di quello che ho fatto io in tutto il lavoro, questo lavoro qui di Morfina, che è questo che poi è stato l'essis more, cioè togliere per aggiungere. Ho usato gli strumenti, un basso a due corde suonato con lo slide, una batteria e il sax baritono, che fondamentalmente, se vai a vedere, sono quei suoni lì, che poi erano anche i suoni dei Morphine per certi versi. Io chiaramente l'ho tradotti con la mia sensibilità, che è più vicina al blues, più vicina al rock, più che loro sono più psichedelici, i Morphine, quindi non ho voluto rifare il loro suono, assolutamente. E infatti Dana si è calato bene dentro, insomma. Te lo chiedevo perché, appunto, sì, hai fatto ascoltare il tuo primo estratto da questo album, Morfina, il filare di tabacco, e quindi questo mio amico non capiva che cosa avevi fatto, quale esperimento. Beh, lì è semplicissimo il discorso, lì c'è una storia vera. Filare tabacco è una storia in dialetto salentino, diciamolo pure, che è la storia del legame alla terra, visto che il concept è sempre questo, no? Il legame a qualcosa che ti dà sicurezza. Quindi le mie radici non le posso dimenticare, tu sai che abito a Modena ormai da tanto, 40 anni, eccetera, quindi sono più modenese ormai, che, però le radici, la terra, come tu, so che sei dall'altra parte, quindi non sei di Bologna, insomma così, non si dimenticano, giusto Gianfranco? No, cioè le radici, ce l'hai sempre. Esatto, Trieste ce l'avrai dentro comunque, no? Sì, sì. E quindi, diciamo così, non si possono dimenticare. Ma in questo caso il concept proprio parla di questo, cioè il mio legame a quella terra è sicurezza, perché comunque mi sento figlio di quella terra, ma è anche dolore, perché nel momento in cui me ne sono andato via, cioè è come se avessi tradito mia madre. In realtà poi l'ho tradita, i miei genitori sono rimasti lì fino alla fine e io ero a 800 chilometri di distanza, no? Per intenderci, quindi soffri di questo sdoppiamento, di questo distacco dalla terra che ti ha generato. E quindi filare tabacco è la storia, perché da noi la base dell'economia era, per tanti anni è stata proprio la cultura del tabacco, che le tabacchine famose lavoravano per le grandi manifatture delle sigarette, insomma, ecco, si dava il tabacco per quasi tutta l'Italia, dal Salento, e però era una situazione di vera schiavitù. Cioè, parliamo di quello che attualmente succede con gli extracomunitari, con i pomodori, raccolta dei pomodori, eccetera, eccetera, no? Come situazione. Se ci pensi, era un po' il blues del Salento. Quel tipo di cosa. Quindi da qui perché tu hai ripreso una canzone popolare. Ho ripreso la canzone popolare, gli ho dato una veste più simile all'Africa che alla vera Taranta, che però, se vuoi, hanno un collegamento, come ho spiegato prima, molto molto stretto. Quindi non è la Taranta tipica originale, è un'evoluzione dell'aspetto africano mischiato al mio rock, al mio nuovo modo di far musica. E allora ti avevo ragione, tu sei proprio un artigiano della musica che va a cercare. E invece, appunto, c'è anche, sei andato a ripescare un pezzo di finale del 77, era Diesel. Che era, quell'album è stato un poster, diciamo, per una generazione, e c'era questa consapevolezza, appunto, nel partecipare al lavoro, nell'essere protagonisti nella società. Tu cosa hai fatto? Hai voluto riadattare questa cosa? Oppure come nasce questo pezzo? Allora, questo pezzo nasce da un'esigenza di capire bene la mia ripartenza, come ti ho detto, stravolgere anche solamente lo strumento musicale con cui suoni normalmente, avere un approccio completamente diverso, perché non è solamente suonare uno strumento diverso. Quando tu suoni uno strumento diverso e così particolare come un basso a due corde, hai proprio un approccio diverso, non hai più, devi andare sempre sul groove, devi sempre andare sul ritmo, non devi più preoccuparti della parola bella o di quello che stai dicendo, devi preoccuparti molto che la tua parola suoni, sia musica all'interno della tua musica stessa, no? E quindi era proprio mi sono quasi suicidato, tra virgolette, già musicalmente, da quello che ero stato fino al 2017, e dovevo rinascere, quindi ripartire. Se ci pensi, poi l'inizio dell'album è stato un anno prima della famosa pandemia che ci ha travolto, e quando mi sono trovato a registrare Diesel eravamo proprio in piena pandemia, quindi anche lì un ricominciare, cioè un azzerarsi e poi ricominciare da capo. Qual era il modo per ricominciare? Qual è, secondo me, il modo giusto per ricominciare, sia per me che auspicabile per tutti quanti, per l'Italia stessa? Non ripartire a razzo stile Ferrari, per intenderci, sempre che la Ferrari ultimamente fa anche un po' lenta, ma insomma, voglio dire, ripartire a tutta randa, come si dice, ma ripartire lentamente, con calma, bisogna ripartire, ok, ma come quei furgoni diesel che noi che abbiamo fatto tour già negli anni 80-90 abbiamo usato tanto, erano dei furgoni, non dico la marca, ma comunque erano diesel che non andavano velocissimi, sia chiaro, però ne facevano di strada e tanta, e soprattutto in quei transit c'era una vita parallela a quella esterna, perché c'era di tutto in quel transit, amori, esperienze, qualsiasi altro tipo di cosa, perché erano dei transit in cui tu vivevi. Diciamo che Finardi l'aveva già scritto questo, se ci pensate bene. Qual è stata la mia idea? E aggiungere, che poi è una cosa credo che sia unica al mondo probabilmente, e aggiungere una parte di testo al pezzo esistente, che è poi un po' l'esegesi dello stesso pezzo, cioè la spiegazione di Diesel, che dico appunto, ho aggiunto questa parte nuova spiegando che Diesel è un concetto, è un modo di ripartire andando piano ma camminando a lungo, no? Diciamo così, senza fermarsi davanti al primo muro. E lì l'idea è stata di far cantare a Eugenio, di far cantare la parte inedita, mentre io canto tutta la parte storica e classica di Diesel, lui parla della canzone inedita. E a livello di arrangiamento, ti arrendo di cos'è, l'abbiamo completamente stravolto, perché abbiamo portato un pezzo che era veloce, anche ritmato, eccetera, l'abbiamo rallentato completamente. Ma Eugenio cosa ha detto? Eugenio gli è piaciuto subito. Ti ricordo che abbiamo tra me e Eugenio, cioè, ci conosciamo da tanto tempo, ma c'è un amico fraterno sia per me che per lui, che è Mauro Spina, che è il batterista, che poi ha prodotto anche il pezzo Filare di Tabacco di cui parlavi prima tu, quindi tutto ritmico, e che era il batterista dei Crisalide, quello che lui chiamava il motore. Vabbè, poi Mauro Spina poi è stato il batterista di Edoardo Bennato, di Pino Daniele, Finardi, e via dicendo, no? E quindi entrambi abbiamo questo amico fraterno che ci fa da garante, come dire, lui garantisce per me della mia qualità e lui garantisce per Eugenio della sua forza, insomma, come dire, no? E quindi ci siamo trovati subito. Eugenio è rimasto molto, a parte che Eugenio è un fan dei Morphine, quindi appena sentito che dentro, perché in questo pezzo suona proprio il sax Dana Colley, quindi appena sentito il sax di Dana si è arreso subito, si è buttato subito a pesce. Poi è stato carinissimo, ha fatto tutto un lavoro molto molto carino. Abbiamo anche qualche immagine che magari quando uscirà il pezzo manderemo anche qualche video di quello che abbiamo fatto, insomma, insieme. È carino, una cosa grande, carina. Grande, grande. Beh, insomma, abbiamo sviscerato i temi appunto salienti di questo album, ce ne sarebbe da parlare. Io ti chiedo solo, visto che sei un sociologo, un osservatore appunto della società, sei bravissimo, volevo sapere, nel polverone SIAE dei diritti d'autore contro questi grossi colossi del web, insomma, tu che cosa ne pensi? Forse che praticamente finalmente gli artisti troveranno un loro posto appunto nell'arte più dignitoso, insomma, o verrete magari frullati ancora di più e quindi niente riconoscimenti? Guarda, credo che sia un problema grosso, perché con l'avvento di tutta la situazione web, diritti d'autore, eccetera, ancora secondo me non si è non abbiamo un indirizzo preciso, perché il web macina, il web non se ne frega niente delle leggi, diciamo così, dicono anarchico, no? Il web, la rete è anarchica. Sì. Però l'anarchia comprende varie cose, può essere un'anarchia distruttiva, quindi non me ne frega niente, vi butto tutto in aria, oppure un'anarchia, come dire, libertà, maggiore libertà nel rispetto di ciascuno, certo. Che il mio modo di essere anarchico è quello, sono un anarchico in questo senso, cioè libertà totale, però nel rispetto di tutti quanti, no? Rispettando tutti quanti, ovviamente. Chi fa musica ormai non c'è più, come sapete, non esiste neanche più il supporto fisico, anzi tra l'altro credo che uscirà il mio CD fisicamente a metà aprile, acquistabile fisicamente, ma per adesso è solamente a livello di scarico digitale dei vari siti che si conoscono, eccetera, però la verità è che nessuno ti dice, ma non si capisce quante sono le percentuali per gli autori, non si capisce dove quali sono i click veri e quali sono gli scaricamenti, poi c'è gente che fa 80 milioni di visualizzazioni e nessuno le conosce, altri che ne fanno 122 e sono personaggi famosissimi, quindi non si capisce più niente, capito? È veramente un mare magnum, una situazione, però da quello che leggo vedo che ci sono varie voci, c'è chi dice che la SIAE non ha voluto diciamo inchinarsi al potere delle varie meta eccetera eccetera, quindi parliamo di Facebook, Instagram e così, ma c'è anche chi dice che la SIAE ha fatto richieste esose rispetto alla media europea o mondiale, non lo so, di percentuali del nuovo contratto, diciamo così, da stabilire insieme ai possessori, no? Ai gestori, gli autori, eccetera. Quindi io non so dirti, sono veramente piccolo in questo, ti posso solamente dire due righe proprio del libro di cui parlavamo prima, Rock, Massa e Potere, editrice Zona, lo dico perché sì. Qualcuno magari può essere interessato. Ecco, nel finale, nel capitolo finale, io parlo proprio delle trasformazioni, perché in tutto il libro parlo delle aggregazioni giovanili intorno alla musica, di come, ma proprio fisicamente si radunano ai concerti, come vanno a creare gruppi che partono da piccole mute nelle varie città e poi diventano cristalli e poi diventano massa, no? I gruppi punk, i gruppi, i beat degli anni 60, gli hippie, eccetera eccetera. Ecco, parlo di questo, poi parlo in una seconda fase, parlo del potere, cioè della rock star che è il vero tiranno, il re, no? Nel mondo della musica, nelle tribù rock, e tutte le varie schizofrenie, le varie manie, eccetera, eccetera, tant'è vero che il sottotitolo di Rock, Massa e Potere, non tutte star sono quelle che luccicano, perché dico, attenzione, e mi metto dentro anch'io, attenzione, chi sta sul palco non è sempre molto meglio di voi, anzi qualche volta avrebbe bisogno di buone cure psichiatriche, come dire. Però alla conclusione di tutto questo, che magari se qualcuno è interessato va anche a trovarsi Rock, Massa e Potere, l'ultimo capitolo parlo proprio di questa trasformazione, di questo new intellect, general intellect, che è quello del digitale. Il digitale non è peggiore o migliore dell'analogico, e parliamo proprio di produzione discografica, cioè il CD non è affatto peggiore del vinile, perché adesso è tornato molto di moda il vinile, cosa vintage, eccetera, ma il CD suona molto meglio del vinile, se dobbiamo parlare tecnicamente. Il problema è che si sta andando all'esagerazione, si sta andando a ridurre tutto ai minimi per poter mettere più cose dentro, perché in un iPod oppure in un computer, in un server, per poter mettere la compressione, per far comprimere in MP3, mettere più possibile dentro, che cosa succede? Sacrifichi la qualità alla quantità, ovviamente. Il suono che noi facciamo, io mi sono fatto, scusate l'espressione, no mazzo tanto, come si dice a Napoli, per fare un disco che suonasse bene, in un, suonato tutto suonato, perché la batteria si è suonata, il basso è suonato, tutti gli strumenti veri che ormai non usa più nessuno, non ci sono manco più gli studi adatti per poter fare una batteria vera ormai, però mi sono fatto il mazzo così per fare dei suoni eccellenti. Chi lavora con me, l'engineer sound, un sound engineer, o chi chiamiamo l'ingegnere del suono, Simone Satta a Roma, ha lavorato tantissimo sui mix, sulle, per far che cosa? Per poi mandarlo in un video o su web o nelle discariche famose, Spotify e tutti gli altri, che comprimono il tutto, e il 90% del lavoro che noi abbiamo fatto per far sentire bene i suoni viene fregato dallo spazio, perché per far più spazio a tutti i pezzi comprimono la roba. Quindi che succede? Succede che tutto diventa molto più falso e più finto. Provate a pensarci, una volta quando usciva un disco nuovo, la prima domanda che si faceva, quando parlo dei grossi, Bob Dylan, chi era il chitarrista di quell'album di Bob Dylan? Eric Clapton o Robbie Robertson della band? Ma questo cambiava di molto l'acquisto del disco, e si sapevamo tutto di tutti gli strumenti che suonavano dentro, dove era stato registrato, perché questo cambiava. C'era la storia dietro, c'era la storia, questo è l'analogico. Adesso non c'è più storia. Chissà chi è il chitarrista del 90 o il bassista, se ci fosse un bassista o un batterista, del 99% di quelli che pubblicano dischi in questo momento. Pochissimi, non si pochissimi sanno qual è la band di questi, non si capisce, perché non c'è una band. No. Bisognerebbe chiedere qual è il plugin che hanno usato, o su che, su Mac oppure su Windows, su qual era il lavoro su cui hanno fatto. Questa è la verità. È vero. Per cui, insomma, un po' sono polemico, però purtroppo il digitale porta a questo. Però interesse, hai ragione, vanno detto queste cose, perché tanti giovani non sanno cosa si perdono, perché comunque certo, di artista c'è un mondo, sono d'accordissimo. Sì, non c'è il sudore, non c'è il sudore più, capito? Il sudore è la pelle, il sangue, va bene. Allora, ahimè, siamo giunti alla conclusione della nostra intervista, a me ha fatto piacere risentirti, starei anche ore a parlare con te, perché io con proviamo te magari a mangiare una pizza. Più là. Assolutamente. Quando vieni a Bologna, ovviamente gli studi sono a tua disposizione. Che dirti, mi ha fatto piacere risentirti e insomma e riascoltare il tuo guarda, io vi ringrazio, vi dico subito che comincio un po' di live a giorno, cioè da metà aprile, e quindi andiamo a progetto. Adesso il 22 so che suoniamo vicino Ferrara, ma il 31 so che maggio dovrei essere a Bologna. Dove? Quindi credo al Bravo Caffè. Allora ci sarei. Centro. E quindi sarò lì e magari ci risentiamo, che ti darò l'annuncio ufficiale così, e credo anche a un'altra data sempre in zona Bologna, ma comunque vi farò sapere. Poi Gianfranco è adorabile, e mi saluti anche quel malandrino di Sauro che sta dietro le quinte. Assolutamente, è il nostro bolognese volante. Ti saluto, non prima di appunto dei tuoi saluti a Radio Città Fujiko. Certo, io saluto tutti quelli che ascoltano intelligentemente Radio Città Fujiko. Ciao da Rudy Marra. Easy Pop è il salotto musicale di Radio Città Fujiko, un programma di Franco Paoletti, in onda la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 16, per ascoltare musica indipendente al 100%. Non ti perdere il nostro appuntamento.